ha saputo trasmettere questa competenza a due persone che in modo diverso hanno collaborato con lui. Una persona è Gianluigi Mazzuffi, con il quale Paci ha percorso tutta la regione alla ricerca di case coloniche da fotografare tra l'estate del 1983 e l'estate 1984. Di questa esperienza, che poi ha dato origine alle fotografie che vedete qui attorno, Mazzuffi ci dirà qualcosa al termine della relazione del dottor Casolanetti, che offre i vini dell'aperitivo di questa serata, e Gianluigi Mazzuffi poi ci introdurrà alla mostra esposta che inauguriamo proprio questo pomeriggio, dopo aver chiuso la mostra dedicata alle fotografie del fotografo Mario Carafoli, che è stata mostra che ha riscosso un notevole successo. L'altra persona della quale parlavo prima, che dicevo Renzo Paci, ha saputo trasmettere una grande competenza a due persone che hanno collaborato con lui, ho detto la prima persona Gianluigi Mazzuffi, la seconda persona è la professoressa Adriana Palombardini, già allieva e poi collaboratrice del professor Paci nella Università di Macerata, che a buon diritto può essere considerata la maggiore specialista attualmente nel campo della storia delle case coloniche marchigiane. Adriana Palombarini è docente di storia economica e sociale nel corso di storia moderna, di storia e memoria delle culture europee del Dipartimento di Scienze Storiche della Facoltà di Lettere di Macerata. All'apertura del nuovo anno accademico, tale dipartimento sarà intitolato a Renzo Paci, che ne era stato a lungo anche direttore. I frequentatori più assidui di questi incontri, qui Uomini e Paesaggi, che ormai sono giunti alla terza edizione, ricorderanno la professoressa Palombarini, che è stata la nostra prima relatrice nel 2005, che ha tenuto una bellissima relazione sul ruolo della donna nella economia del mondo pensatrice. E ora do la parola.